Quindi l'uomo del futuro non avrà, che ne so, un sesto dito per usare WhatsApp, no? Cioè non, cambiamenti di questo tipo non sono previsti. Però imparerà a usare in modo nuovo ciò che ha già a disposizione, in particolare questo grande cervello. Ok, mi sembra un'ottima prospettiva. È il momento dei bambini, sentiamo qual è la prossima domanda. Il nuovo anno sarà più bello dell'anno vecchio? Chi lo sa se il nuovo anno sarà più bello di quello vecchio, però ci siamo chiesti, andiamo a scoprire come sarà questo 2016 e per farlo abbiamo inventato chi il 2016 l'ha già vissuto completamente sulla carta perché si è andato a segnare gli appuntamenti imperdibili, le giornate più belle, le giornate più significative del nuovo anno e sto parlando di Valentina De Poli, direttrice di Topolino. Ciao Valentina! Ciao, ciao Valentina, quale migliore osservatorio sul futuro di Topolino? Esatto. Infatti, noi abbiamo gli uomini del futuro che ci leggono, quindi grande responsabilità. Siamo qui per attivare la loro curiosità. Allora, cos'hai fatto una carrellata del prossimo calendario? Sì. Cosa hai trovato? Cosa ci dobbiamo segnare in agenda? Allora, tantissime cose. Beh, innanzitutto volevo dire che comunque ogni anno nuovo è sempre più bello dell'anno precedente, perché per me questo è un diktat che mi ripeto ogni anno, ma senza dover forzare molto, perché proprio avendo la possibilità, anzi il dovere, di occuparmi dell'anno che arriva per ragioni di pianificazione editoriale con il giornale, mi rendo conto con entusiasmo che ci sono sempre più cose a cui dedicarsi, perché vuol dire che siamo in evoluzione, perché vuol dire che i nostri lettori ci chiedono tantissimo, per cui l'anno nuovo è sempre più bello di quello che abbiamo lasciato, anche se quest'anno non ci sarà l'Expo. Non la rimpiangeremo, anche se è stata una bellissima esperienza. E sì, ho trovato tantissimi appuntamenti, c'è da dire che le feste dedicate a argomenti specifici, quindi sì, la giornata mondiale di, si sprecano, praticamente ci sono 365 giorni di festa praticamente, per cui la scelta è molto molto difficile, però quest'anno ci sono degli appuntamenti sicuramente che saranno quelli a cui dedicheremo più attenzione, mm-hmm, e anche perché interessano senz'altro i nostri lettori, un po' per tradizione, per esempio le Olimpiadi. È vero. L'anno delle Olimpiadi, questa. Esatto, per tradizione Topolino le affronta da decenni, sia dal punto di vista del fumetto, ma anche dal punto di vista della presentazione, dell'andare a scoprire cose nuove, nuovi sport, anche perché è un mondo in evoluzione quello delle Olimpiadi, per cui diciamo che l'anno nella sua metà poco avanzata sarà sicuramente dedicata a quello, e poi però abbiamo anche altri appuntamenti importanti che mi sono segnate sicuramente e saranno raccontati in maniera molto molto particolare e approfondita su Topolino, come per esempio la giornata mondiale del libro che cade ogni anno il 23 aprile e che ci porterà anche verso il Salone del Libro a Torino, oppure il 5 ottobre, questa è una delle mie ricorrenze preferite, perché il 5 ottobre si festeggiano i nonni in Italia e io, avendo scoperto di avere tantissimi lettori, anche nonni, che sono coloro che fanno conoscere Topolino ai bambini, mi sento quasi ogni anno e sempre di più in dovere di ringraziarli dedicando un numero intero, e quindi mi piace l'idea di condividere questa festa insieme ai lettori più giovani, quindi la festa dei nonni in realtà è la festa di tutti, e quindi dei bambini. Poi che cosa ancora? Una cosa particolarissima che forse è quella che ha suscitato l'entusiasmo di tutta la redazione, sceneggiatori, disegnatori, giornalisti in toto, sì, perché la FAO quest'anno ha dichiarato il 2016 l'anno internazionale dei legumi. È fantastico. Le lenticchie, ne abbiamo parlato prima, arrivano a... No, ed è incredibile, perché naturalmente cioè, è un tema che dà mille spunti per trattare molti temi seri, però anche tanti spunti comici, perché penso solamente ad Inabite Bla, che cosa non può tirare fuori a livello di storie con le sue ricette ricette particolari con i legumi, ma poi, non so, ha suscitato entusiasmo. Quando io ho lanciato l'idea in redazione, le mani alzate su chi vuole occuparsi dei legumi, tutte praticamente, perché evidentemente è insospettabilmente un tema molto sentito. Valentina, no, senti, soprattutto, il prossimo è anno bisestile, 2016, esatto. Anno bisestile, cosa succede lunedì 29 febbraio? Allora, me ne sono segnata. La mia proposta è quella: quel giorno bisogna inaugurare un sacco di progetti nuovi, così poi li festeggio ogni 4 anni. Io penso che ti ruberò subito l'idea, perché io questa, veramente, ti dico il vero, perché il mio programma editoriale è proprio suddiviso settimana per settimana e c'è un sacco di caselline, e mi sono proprio segnata il 29 febbraio, sottolineandolo con un evidenziatore, proprio perché vorrei trovare qualcosa di speciale, e tu mi hai dato subito un'idea, perché questa è un'idea bellissima, che ci fa capire anche qual è il percorso che facciamo di 4 anni in 4 anni, che non è niente male, anche per il discorso che facevi prima sull'uomo del futuro. Per cui ti rubo un'idea, se me lo permetti. Perfetto. Che diventa già parte del piano editoriale, quindi coinvolgerà tutti i bambini che ci leggono. Vale, grazie, direi che insomma abbiamo fatto una bella, un bel viaggio nel futuro, un bel viaggio e molto stimolante, molto ricco di belle date che ci aspettano. Grazie e un grande 2016 a te e a tutta la tua redazione. Buon anno. Grazie, buon anno, buon anno. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Questo è l'anno che verrà di Lucio Dalla, e accompagnati dalle sue parole andiamo a scoprire quello che abbiamo imparato oggi. Che l'unico modo di prevedere il futuro è inventarlo. Che le lenticchie portano fortuna e il prossimo anno sarà il loro anno. Che i robot del futuro saranno morbidi, utili e intelligenti come un cellulare. Che in futuro avremo degli insegnanti robot, ma per fortuna avranno l'interruttore. Che nella scienza del futuro i punti di domanda, anziché diminuire, aumenteranno. Bene vista, il 2016 spiegato a mio figlio, finisce qui questa puntata, questa avventura festiva. Insomma, Telmo, è sempre, sempre bello raccontare il mondo ai più piccoli. Sì, è un nuovo inizio, come oggi. Assolutamente. Ringraziamo tutta la squadra, Silvia Righini che con noi ha scritto la puntata, Andrea Roccabella invece nella parte tecnica. Questo è il nostro miglior 2016. Ciao Telmo. A presto. L'anno nuovo. Con il train di mezzanotte, puntualissimo in orario. Ecco il nuovo calendario. È arrivato un treno merci con un solo passeggero, piccolissimo ma fiero. Tra gli evviva dei ragazzi, l'anno nuovo mostra Gaio il suo grande bagagliaio, pien di gioia e di dolori, di successi ed amarezze. Su, ragazzi, son per voi queste merci, e si vedrà chi ben scegliere saprà.